veces yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Bene, questa mattina è molto più che una trasmissione di servizio. È una trasmissione di estrema lussuria per il più inconfessabile dei vizi di molti italiani, che è quello di scrivere. Quanti di voi avranno la sicurezza, la certezza, confermata probabilmente da zie, nonne, coniugi, amici, fidanzati, parenti, figli, di essere degli scrittori incompresi? Di avere nel proprio cassetto qualcosa che nessuno ha avuto mai la possibilità di valutare nella sua essenziale forma di capolavoro. Sto naturalmente un po' esagerando, sto rendendo parossistico e paradossale quello che in realtà è una lecita aspirazione di ognuno di noi. Lasciare una traccia il più possibile incancellabile del proprio percorso esistenziale. Chiunque scrive, scrive sempre di se stesso. Chiunque racconta, racconta sempre qualcosa che ha vissuto, anche se soltanto l'ha pensato, l'ha immaginato, l'ha sognato. Mai, forse, arriverebbe ad ammettere di essere lui il protagonista di quella storia, di quel racconto, di quell'insieme di poesie, di quello zibaldone, quell'insieme di foto, di ricordi. Oggi che il prodotto multimediale alla portata di tutti, con semplicissimi sistemi casalinghi, molti hanno già confezionato l'album che dovrebbe lasciare una traccia del proprio passaggio in questa avventura terrena. Beh, questa mattina è una grande occasione. Melog, come già avvenne l'anno scorso, in occasione del Salone Internazionale del Libro a Torino, la grande rassegna italiana di libri, librai, scrittori, lettori, sarà a trasmettere in quel luogo, nel Lingotto di Torino, lì accanto perlomeno c'è una grande piattaforma meravigliosa che stanno allestendo, dove sarà Radio 24, ci sarà anche Melog. Ci sarà, mi sembra, se non ho bene le date, il giovedì 14, venerdì 15 o qualcosa del genere, poi lo dirò, maggio, sì esattamente, mi dicono. Per quei giorni noi trasmetteremo in multipla e diffusa possibilità di essere ascoltati, di essere visti, di essere toccati e lambiti. Non vorremmo dare un senso transeunte e fuggevole al nostro passaggio, ma vorremmo prenderci un impegno serio con i nostri lettori. Una volta tanto vorremmo per qualcuno di loro soddisfare una delle loro più inconfessabili lussure, o perlomeno quelle lecite, quelle che ci ha permesso di soddisfare senza avere problemi di coscienza e essere rincorsi comunque dalla forza pubblica. Io? Mai scritto niente, per carità. Oggi sono più quelli che scrivono di quelli che leggono. Sì, sì, dite tutti così, ma non è vero. Anche voi scrivete e sognate. Lo sappiamo benissimo che da qualche parte nel vostro PC, nella cartella foto vacanze, conservate un insospettabile documento di Word, un file che di tanto in tanto riaprite e aggiornate, rileggete, modificate e poi salvate. Sappiamo anche che per proteggerlo da sguardi indiscreti non l'avete nominato mioromanzo.doc, ma ricetta nonna, lista spesa, infotreni. Bene, oggi non dovete nascondere niente, dovete uscire allo scoperto. È il vostro giorno. Anonimi scribacchiatori, oscuri romanzieri picchiatasti, incompresi poeti fai da te, estensori di memorie autobiografiche, panterate autrici di diari sessual gastronomici, disperati letterofili senza raccomandazione. È arrivato il vostro momento. Chi di voi, telefonando in diretta a Melog, riuscirà a convincerci della validità del proprio progetto editoriale, chi saprà sorprenderci e sedurci, avrà diritto di giocarsi la grande occasione della sua vita al Salone del Libro di Torino. Noi di Melog ci impegniamo a portare la sua proposta a un editore presente al Salone del Libro di Torino. Per una volta tanto, non scherziamo. Ora tocca a voi. Non avete alibi. Il vostro futuro artistico è nella vostra voce. Chiamateci e convinceteci. 800 24 0024. Ecco la prima mia necessaria rettifica. Saremo al Salone del Libro da giovedì 13 e venerdì 14, almeno noi come Melog, il Salone va da giovedì 13 a lunedì 17. Ma noi giovedì e venerdì saremo lì. Saremo lì pronti a ricevere il vostro manoscritto, o perlomeno di avere segnalazione questa mattina chiamando all'800240024, avrete la possibilità ineffabile e unica di dare un piccolo saggio orale della vostra perizia, cioè leggerete alcuni passaggi del vostro libro o ne farete un abstract o lo riassumerete o ci direte quello che è lo schema essenziale o come lo state componendo o dove lo avete nascosto o cosa nascondete nel nascondimento di scrivere un libro e via dicendo. Cosa faremo noi? Naturalmente non prendiamo nulla troppo seriamente, però perlomeno quello che voi ci date andremo in giro per il salone e lo daremo a un editore. Dare un editore non significa che ve lo pubblica, non è una conseguenza immediata, però glielo metteremo in mano, questo poi non so cosa significherà. Qualificheremo con il passaggio della nostra prima scelta il fatto che gli sottoponiamo un vostro prodotto dell'ingegno. Voi però datevi da fare questa mattina, perché l'occasione, devo dire, è unica, non avrete molte altre di occasioni per far uscire da quel fumoso e polveroso cassetto il frutto del vostro ingegno segreto. Giancarlo, buongiorno. Oh, buongiorno, buongiorno a tutti, a voi e agli amici ascoltatori. Lei è il primo aspirante scrittore? Sì, ma guarda, io ho scritto un libretto, ti dirò che... Prima regola, non lo deprezzare, non dire un libretto, sennò sembra un peccato da adolescente. Hai scritto il libro della tua vita? Sì, diciamo, sì, effettivamente, vai. Cioè, guarda, io come faccio ad andare dall'editore con uno che mi dice ho scritto un libretto? Lei dire ci ha messo lacrime, sangue, ha sacrificato gli affetti, ha sacrificato gli amori, il lavoro, è distrutto, sì. È sull'orlo della dissoluzione fisica per questo libro, vero? È così? Sì. Senti, comunque, il libro si intitola La via toscana all'illuminazione e raccoglie un po' tutta la mia vita, quello che io ho capito, la risposta alle domande che mi sono fatto, che poi ci facciamo un po' tutti. Sei un maestro di vita? Prego? Sei un maestro di vita? No. Io sono un vecchio marinaio, ho navigato per tanti anni nei sommergibili e poi ho lasciato la marina e adesso sono in pensione e utilizzo il mio tempo per cercare di navigare in quel mare stupendo, infinito che è dentro di noi, dove è assai più difficile navigare che non nel mare normale, insomma. Sì, ecco, però dammi un motivo di interesse perché qualcuno voglia farsi una nuotata nel tuo mare interiore, perché sennò, sì. Sai... Non metto in dubbio che sia sterminato e affascinante, però dacci un piccolo pizzico di glamour perché qualcuno possa venire voglia di farlo. Ah sì, va bene, allora guarda, io qualche anno fa ho avuto delle esperienze un po' particolari che mi hanno proiettato in una dimensione, un po' diversa da quella che noi normalmente percepiamo con i nostri sensi. Hai parlato con gli UFO, hai visto qualche entità? No, niente di tutto questo. Nel sommergibile hai avuto esperienze che... sono state veramente dure da sopportare. Cosa è successo? No, niente, è un discorso molto lungo, io ho trovato devi persona... sintetizzarlo, guarda, l'editore c'aveva 30 secondi da dedicarmi, se non una sintesi, sì, dillo in poche parole. Non vorrei parlare tanto delle mie esperienze passate, quanto di quello che ho scoperto recentemente. Che scoperto? Tutte le domande che ci facciamo noi, che diavolo ci stiamo a fare a questo mondo? Te ne faccio una, tu rispondimi secondo la tua illuminazione. Da dove veniamo? Ecco, esattamente, da dove veniamo? E questa rispondi, da dove? Da dove veniamo noi? Noi veniamo da un'energia, io almeno credo, noi veniamo da un'energia creatrice che della quale energia creatrice noi facciamo tuttora parte, abbiamo dentro un frammento di energia creatrice. Una scintilla di cosmo che c'è. Esattamente, una scintilla di cosmo. Però vedi, è prevedibile questa cosa, lo dicono tutti. No, guarda, ti volevo dire che questa cosa non è che me la sono inventata io, per carità, io sono andato alla ricerca umilmente di quella che poteva essere la verità. Io mi sono imbattuto nella mia ricerca, in un maestro, 4 anni fa, nella teoria di uno personaggio straordinario, veramente eccezionale. Si chiama? Il nome? Si chiama Fagioli. È un... Ah, Fagioli, sei un fagiolino. Vabbè, ma hai scoperto, ci sono centinaia, migliaia di fagiolini. Comunque, prendo per buona la tua cosa, sarà l'ennesimo fagiolino spuntato dalla grande serra creativa del famoso psicanalista Fagioli e quindi saremo a vedere come fiorirà. Carmine. Ciao Gianluca. Velocemente, più sintetici però, qualcosa di più originale, sennò... Sì, io ho scritto ciò che considero un piccolo capolavoro. È un testo teatrale che informa sui cibi che possono nuocere, sui veleni degli alimenti, sulla tossicità della cosmetica. Devi parlare con Nicoletta Carbone però. Accennando anche... Com'è? È il suo tema, Nicoletta Carbone fa la trasmissione, sì. Essere e benessere, sì, dopo di me. Sostanzialmente sì. Sta preparando la sua... Prostata parte seconda, però potrebbe essere utile. Come si titola questo libro? A pranzo con Don Merlo, l'ospite che non mangia. Don Merlo chi sarebbe? Un prete? No, no, Don Merlo è un personaggio che rappresentai la prima volta in teatro. Ma Don perché? Don perché? Ha un'ascendenza... Domine, Don Padrone Merlo. Ah, Padrone Merlo, sì. Dove è ambientato? In quale regione? Soltanto in cucina. In cucina, una cucina interna. Una donna invita, con proprio figlio, invita questo Don Merlo, prepara un... E il figlio che ruolo ha in questo terzetto? Il figlio è la parte più importante del racconto perché fa da tramite fra ciò che è conservatore, ciò che è restio, ciò che è restio al nuovo e che sembra madre ed il padre di questo Don Merlo che viene invitato, che rappresenta... E il padre non c'è in questa famiglia? No. E Don Merlo alla fine se la fa la madre? E alla fine no. Non eh beh, però forse dovresti lavorare un po' sul finale. Prendo atto e segno e stiamo appuntando. Marco da Reggio Emilia. Salve. Allora, la sua inconfessabile fatica letteraria? È un romanzo dedicato alla gioia, o meglio, come raggiungere la gioia, perché mi sembra che sia un elemento centrale. Vedo che tutti questa mattina tendete a dare delle formule di salvezza, l'uno attraverso l'arte culinaria e l'altro attraverso l'arte legata appunto alla scuola di fagioli, però declinata nel ventre del sommergibile, rapido ed invisibile. Te in particolare a cosa appoggi la tua formula di gioia? Sulla capacità di superare i sensi di colpa, i vissuti di colpa. Cosa sei, psicanalista? Psicologo, sì. Psicologo, quindi è un testo di consultazione, un testo quasi scientifico. No, è un romanzo, è il vissuto di uno psicologo. Hai presente il film Hannibal? Sì, beh, oddio, quello era un neuropsichiatra talmente intelligente da mangiarsi le persone vive. Perfetto, questo è speculare, questo è uno psicologo talmente intelligente da riuscire a rispettare se stesso e gli altri. E non mangiava nulla. Mangiava nulla, è una versione positiva. Beh, come tutti gli psicologi. Personale. Va bene, e in cosa eccelle questo personaggio? Ma eccelle nella sua capacità di dare il meglio di se stesso in ogni luogo, dai più... Vabbè, questo anche Superman lo fa. Però questo è un essere umano, cioè riuscire a essere se stesso. E qual è la criptonite del tuo personaggio, il punto debole? Il punto debole è che se le persone aderissero sarebbe una rivoluzione sociale enorme, se aderissero a questo messaggio. Però lo sai, siamo nati per soffrire, quindi non accadrà mai. Quindi è un romanzo sull'utopia. Come dice, è un romanzo sull'utopia. Un'utopia che però si è realizzata. Conosco alcune persone che hanno tradotto queste suggerimenti. E il vostro caposcuola chi è in questo caso? Io. Tu hai creato una scuola, va bene, hai fatto bene. Alessandra, chiudiamo con Alessandra il giro, poi sentiremo un esperto. Alessandra da Milano. Sì, buongiorno. Cosa ha raccolto lei? Allora, innanzitutto, io scrivo poesie e... Sintesi, devo avere sintesi. Sì, però non voglio parlare di me. L'editore mi darà pochi istanti, mi guarderà con uno sguardo di schifo. Non voglio parlare di me, voglio parlare delle poesie che ha scritto mia zia. Mia zia è recentemente morta, circa un mese fa, sì. E andando a spulciare a casa sua abbiamo trovato un malloppo, diciamo, di più di 100 poesie curate, perché tutte da te l'ho scritto. Cosa ha avuto di epico sua zia nella sua vita, che racconta poesie? Epico? Epico, sì. Di particolare. Allora, mia zia era un personaggio unico. Innanzitutto si è sposata per la prima volta a 63 anni, dopo aver fatto tutta una vita da... Cosa ha fatto a 63 anni? Si è sposata per la prima volta. E il marito quanti anni aveva? E il marito ne aveva 65. Ah, quindi coetanei. Completamente diversi, tra l'altro. Lui è assolutamente un uomo d'affari, mia zia è un personaggio ciclopico, nel senso... C'è un occhio solo. Al massimo. Sì, esatto. Cioè, ha cercato di un occhio. Vabbè, succede. No, volevo dire un'altra cosa adesso, però mi sono emozionata. Unico. Mia zia ha insegnato durante tutta la vita ed ha vissuto a Mogadiscio. Allora, era laureata in giurisprudenza, però all'epoca si poteva, per chi faceva scuola di interprete, anche insegnare in università lingua inglese. Poi ha fatto dei master specializzati. Sì, ma prima, diciamo, dopo l'Africa italiana, nel senso negli ultimi decenni, o al tempo allora, di Faccetta Nera? Sì. Allora, no, dopo Faccetta Nera, lei è stata a Mogadiscio prima della guerra civile all'università di Mogadiscio a insegnare e poi ha curato il programma di formazione dei professori. E racconta il suo amore a Mogadiscio, queste cose del genere, oppure... No, perché amori pochi. E allora cosa racconta? Vita. E la zia racconta il suo universo, racconta sia dell'amore, amore e contrasto per questa città piccola di provincia in cui è nata, sia il suo io interno, sia proprio fatti di cronaca, di storia. Ho trovato sulla guerra in Vietnam, sul perché il figlio della sua vicina di casa si drogava, non solo legati al suo io, ma legato anche proprio a quello che vedeva. Viveva, lei, diciamo, un punto di vista eterodosso sulle vicende del mondo, da grandi temi, dalla guerra del Vietnam al problema della droga, vista da un'insegnante italiana di inglese a Mogadiscio. Può esserci l'interesse nel suo minimalismo estremo, ma vorrei cominciare a sottoporre questa prima carrellata all'ospite misterioso che finora è stato in silenzio e poi ci seguirà fino alla fine della trasmissione, Alberto Castelvecchi. Buongiorno. Buongiorno. Alberto Castelvecchi, l'ho chiamato questa mattina perché è un editore eterodosso in Italia. Alberto, ai tempi della mitica Castelvecchi, fu un grande scopritore di talenti letterari che poi gli hanno sempre portato via gli altri, ma lui è stato il primo. Adesso lavora per la Liberty Castelvecchi, ma in più è agente letterario. Alberto, abbiamo sintetizzato un microcosmo di velleità autoriale e di scrittori, poeti in Italia. Cosa hai da dire? E dunque, innanzitutto, che come spesso succede, partiamo dall'ultima telefonata che abbiamo sentito, diffidare delle persone che ti dicono ho questo libro e mio zio, mia cugina, i parenti dicono che è un libro bellissimo. La domanda è che cosa vuoi che ti dicano i parenti? Certo, mi posso dire, poi la zia è morta da un mese, ti pare possono in questo caso c'era l'aggravante, vilipendere la memoria della povera zia, diranno tutti brava, bellissima. Ecco, in generale nei quattro contributi che abbiamo ascoltato c'è un po' proprio la incapacità di adeguare i mezzi ai fini, mi spiego meglio. L'ultima vicenda, più che delle poesie, sembrerebbe, io consiglierei a questa signora di scrivere un libro che si intitola Perché mia nonna si sposò a 63 anni, però un libro ironico, non un libro così serioso. La cosa ancora precedente, il famoso Merlo che non parlava, non mangiava, l'ospite in attesa, come si chiama? Don Merlo, sì. Ecco, e Don Merlo, in quel caso non si tratta di scrivere un libro, anche lì non serve il mezzo libro per rappresentare quella cosa, bisogna fare uno spettacolo teatrale, poi se lo spettacolo teatrale va bene, oggi il teatro va piuttosto bene, un po' in ripresa a differenza di certi libri, si farà il libro. Quindi suggerisci in quel caso di scrivere un copione per il teatro, non perdere tempo a fare un libro? L'ascoltatore Emiliano Romagnolo, non mi ricordo se si chiamava da Reggio Emilia, da Bologna, sì, insomma, quello che ha scritto il libro sulla felicità. Beh, anche in questo caso si consiglia innanzitutto, prima di professarsi guru, di avere almeno una scuola di 500 persone che sono disposte a riconoscerti come Fagioli Docet, scusa. Ecco, e anche in quel caso, è vero che il romanzo a tesi, cioè quello per dimostrare la vocazione alla felicità o la vocazione al viaggio, è anch'esso un genere, però anche in quel caso consiglierei al nostro ascoltatore di scrivere un saggio, non di scrivere un romanzo. Nel caso poi del primo ascoltatore, quello della Via Toscana all'illuminazione, consiglierei all'ascoltatore di non guardare troppo lontano da sé in maestri orientali o dottrine sapienziali, perché, come tu sai bene Gianluca, esiste una sottile vena metafisica. Lui mi sembra però si rifaceva alla scuola romana, dice che era allievo di Fagioli. Per i fatti, a quella scuola toscana che sono, che ne so, Berlinguer ti voglio bene di Benigni, oppure a ovest di Paperino di Francesco Noti, cioè quella specie di metafisica. Cioè, quando io ho sentito Pieraccioni ha fatto la sua fortuna su quella scuola, ecco, la Via Toscana all'illuminazione, io se fossi proprio, anzi essendo l'editore che stai vecchi, direi a questo signore buttiamo tutti i contenuti, teniamo il titolo che è magnifico, sembra tipo lo zen e l'arte della meditazione della mia nonna, per intenderci, e gli direi troviamo quali sono all'interno di una vita tra paesana toscana gli elementi zen e gli elementi che portano all'illuminazione, cioè il pubblico oggi sarebbe interessato forse più a una roba del genere. Insomma, prima regola se si vuole scrivere è di capire bene se c'è un senso. L'altro aspetto importante è che senti Alberto, scusami, perdonami, siccome non ti voglio interrompere, ci fermiamo un istante, devo dare la linea alle informazioni della bozza e riprendiamo proprio fra un minuto, perché è molto interessante quello che dici. Non avere paura, provinciale terrore dello strapaese che si interpreta, non andare a cercare ispirazioni che non ci appartengono, ma lavorare su quello che si sa, che si vede, che si vive. Melog 2.0. Chi di voi, telefonando in diretta a Melog, riuscirà a convincerci della validità del proprio progetto editoriale, chi saprà sorprenderci e sedurci avrà diritto di giocarsi la grande occasione della sua vita al Salone del Libro di Torino. Noi di Melog ci impegniamo a portare la sua proposta a un editore presente al Salone del Libro di Torino. Per una volta tanto, non scherziamo. Ora tocca a voi. Non avete alibi. Il vostro futuro artistico è nella vostra voce. Chiamateci e convinceteci. 800 24 0024. Stiamo tentando questa impervia e folle avventura di farci prendere a pedate o a pomodorate in faccia da qualche editore. Ma vogliamo farlo, lo facciamo per il nostro pubblico, lo facciamo per voi. Mandateci delle idee plausibili, perché ci stiamo facendo aiutare da Alberto Castelvecchi, che è un agente letterario, un grande scopritore di veri talenti negli ultimi 15 anni in questo paese, a assaggiare quelle che sono i limiti delle velleità. Castelvecchi ci ha detto poco fa che in realtà bisognerebbe guardare con un occhio meno distante l'humus, l'alveo in cui ci si matura, il proprio habitat naturale, non avere paura della puzza di cavolfiore di casa nostra, ma trasformare in gloriosa essenza ispiratrice quella che per noi sembra il grande limite alla nostra espansione, non guardare oltre le proprie angustie ma rendere gloriose le proprie angustie. Alberto, ho riassunto efficacemente il tuo pensiero? Sì, hai riassunto efficacemente quello che ho detto. La seconda raccomandazione che volevo dare è quella di pensare bene alla storia che si vuole raccontare. Io mi ricordo una scena di un film che mi piacque moltissimo, Good Morning Vietnam, dove il protagonista è questo radiocronista che intrattiene le forze americane in Vietnam, viene scortato al suo acquartieramento da un grosso, da un corpulento sergente nero. Improvvisamente un camion rischia di investirli, questo sergente nero capitombola e si riesce a salvare dall'investimento e poi dice: wow, lo sa signore che per un attimo, in quei tre secondi in cui ho rischiato l'investimento, ho rivisto tutto il film della mia vita. E dice: vabbè, d'accordo, sì, però il problema è che non c'era niente di interessante in quel film. Allora, se non abbiamo una storia da raccontare, piccolo o grande che sia, è bene che non ci mettiamo a scrivere un romanzo. Se non abbiamo una storia da raccontare che possa interessare almeno altre 1000 persone, bensì abbiamo una tesi da dimostrare, una cosa da comunicare al mondo, mettiamoci a scrivere un saggio. Insomma, bisogna scegliere bene, bisogna riflettere. Se no, uno può anche andare a giocare a bocce, sai, mica è l'umanità anela che tutti scrivano un romanzo. Mi sembra che le bancarelle dei libri usati e da mandare al macio sono abbastanza piene per raggiungerne altri. Per di più teniamo presente anche una cosa, che oggi la vita editoriale si è trasformata in industria culturale e veramente se un libro non ha almeno 2-3 mila copie prenotate in libreria è un libro destinato a sparire prima ancora di arrivare nelle mani dei lettori. Altro consiglio fondamentale, credo che questo vada dato proprio per correttezza etica verso chi ci ascolta: non solo diffidate, ma sbattete il telefono sul naso a quei finti editori che vi chiedono soldi per pubblicare i vostri. Ecco, su questo fra un po' avrò una testimonianza che aprirà gli occhi probabilmente a molte persone, perché io conosco signore e signore, colleghi e colleghe che scrivono libri anche con titolate, case editrici, però naturalmente hanno chiesto un contributo alla pubblicazione. Significa che te lo autofinanzi da solo il libro, allora tanto vale scriverselo e magari diffonderselo attraverso alcune aree web che permettono di distribuire i propri libri. Si fa meno fatica e più dignitoso. Gianluca, buongiorno. Buongiorno, grazie. Velocemente, ah, vogliamo che devo fare intervenire un altro. Mi riallaccio a quello che ha detto adesso. Praticamente io collaboro, insomma, frequento da alcuni anni un portale web che si chiama bravatori.it. Sì. E in pratica lì si fanno concorsi, si fanno gare letterarie, si mandano proprio racconti, poesie. E lei che ha vinto? Per ora niente lì, diciamo la verità. Qualcuno ha vinto qualcosa? Ci si diverte. Ma qualcuno di quelli che frequentano quest'area ha vinto qualcosa, ha pubblicato? Sì, qualcuno ha pubblicato, ci sono anche persone che hanno pubblicato libri o, diciamo così, autoproducendoseli o essendo pubblicati normalmente una casa editrice. Guardi, se uno ha di investire personali capitali nel proprio presunto talento, uno va, stampa un libro, cerca un distributore, se lo finanzia, il problema è risolto. Se uno vuole fare questa sfida, dire nessuno mi capisce, mi comprende, perché è tutto mangia, sono sempre soliti amici degli amici, se non c'è qualcuno che conta, se lo stampa, però deve essere palese secondo me l'operazione, dire questo libro ma sono stampato io, è un atto di sfida. sfida, un ibris meravigliosa nei confronti dell'Olimpo dei grandi scrittori. Va bene, lei, il tema del suo romanzo? Allora, io sto scrivendo un romanzo, non è finito, è un romanzo di fantascienza, che diciamo un genere che non... almeno in Italia o comunque sia non è molto... Non faccia commenti, vada al punto, di cosa parla? Niente, praticamente parla, la storia è molto, diciamo così, è una storia che riguarda un gruppo di ragazzi che vengono coinvolti in una storia più grande di loro, in pratica riguarda molto l'esoterismo e la fantascienza nello stesso tempo. Sì. Quindi, diciamo, collega, ma diciamo, c'è dietro gli UFO, civiltà scomparse, maestri invisibili, qual è il tema, il filone? Il filone è una setta che aspetta l'avvento di una civiltà aliena. Ah, sì, forse sì. Per o meno è un altro discorso. Ma arrivano gli alieni? Sì, diciamo che arrivano. Ah, bene, quindi si vedono anche i mostri diciamo veri. Diciamo che arrivano, non sono quello che possono sembrare, insomma. Ah, ecco, sì. Sono come noi, va bene. C'è qualcosa di già visto, ma ci lavori. Barbara, da Genova. Buongiorno. Cosa sta scrivendo? Siate più sintetici, però subito. Allora, ho scritto un libro di poesie e racconti, ci sono dietro da 2 anni. Poesie o racconti? Poesie e racconti. Ogni alternati. Racconto è preceduto da una poesia. E si vede la differenza fra la poesia e il racconto? Sì, direi di sì, anche molto. E le poesie erano già state scritte in precedenza, in età anche adolescenziale, poi le ho un po' rimaneggiate. Quindi ha allungato il brodo di qualcosa che già aveva? Sì, ma diciamo che visto che poi il fine ultimo è quello di scrivere un romanzo, volevo arrivarci a passi lenti e moderati. E perché ci ha infilato le poesie dentro al romanzo, che è come dire una sera a cena viene portata la scatoletta di carne in scatola? No, era un'introduzione, visto che il racconto poi verte sullo stesso argomento, visto che io ho sempre scritto poesie, mi sembrava un giusto tributo anche alla mia adolescenza. E poi ormai ce l'aveva lì, perché buttarle via, rinunciare a 70-80 infatti, pagine? Visto che comunque erano piacevoli, almeno secondo la mia opinione, poi l'ho già fatto leggere un po' in giro. Lo fa leggere ad amici o a sconosciuti? A sconosciuti, a un professore che mi sta un po' aiutando. Ma ambisce anche alle sue grazie fisiche, scusi, o è disinteressato? Ma il professore è molto anziano, quindi in lei questo è giovane. Caso, io ho 38 anni e sono ancora abbastanza soda per avere qualche possibilità. E quindi è attizzato come un mandrillo e le dirà bellissimo, bellissimo, parliamone insieme. No, penso che... No, non valuti caso. Questa ipotesi, guarda, io lo dico perché devo fare l'avvocato del diavolo, però c'è anche questa ipotesi, il mondo è pieno di paterni istruttori, di archimandriti che non chiedono di meglio, che in realtà sono archimandrilli, di trovare giovani scrittrici in erba o mature, come ha detto lei, ancora sode, signore, volenterose di far vedere il meglio di se stesse. Diffidi. Alberto, su quest'ultime 2 telefonate, poi passiamo all'ospite che ci rivelerà un aspetto oscuro dell'editoria. Sono 2 telefonate che... Concordi la mia ultima lettura su questa signora? Sì, assolutamente sì. Io è brutto, ma è così. Diciamo che sì, appunto, il discorso della 38enne ma ancora soda lo trovo personalmente un po' raccapricciante, però io per ovviare a questo problema, sia che lo scrittore sia maschio che femmina, vecchio, grande, eccetera, eccetera, quando mi dicono vorrei venirla a trovare per parlarle di persona, io dico no perché io devo parlare col suo libro, se no sembra come i bambini accompagnati a scuola dai genitori, i vostri libri parlano da soli, non hanno bisogno che voi vi presentiate fisicamente all'editore. E anche l'altra telefonata relativa al romanzo di fantascienza, diciamo queste 2 telefonate sono le tipiche che inducono nell'editore un ragionevole terrore e istinto di fuga, cioè noi tendenzialmente ci sottraiamo a questo tipo di proposte, perché è pur sempre vero, una persona che dice ho scritto un romanzo poetico, un'alternanza di prosa e poesia potrebbe essere il nuovo Francesco Petrarca, però c'è una probabilità su 1 miliardo che sia così. E sinceramente non me la sentirei io di giocare d'azzardo. In realtà non vuol buttare via della roba che ha, e quindi ha paura, ha un horror vacuo, ha paura di aver poco da scrivere, ci butta dentro un po' di tutto di quello che già aveva. Se io scappo davanti a 2 scrittori di questo tipo e neanche li voglio incontrare, può darsi, c'è una remotissima possibilità che io non stia dando dalle stampe il nuovo genio del millennio, però è talmente remota questa possibilità che non gioco a poco contro il banco, semplicemente mi do la fuga. Ecco, sentiamo un altro esempio, l'ultimo, Lorenzo, poi rimandiamo a Linda Rando che è in attesa a un istante dopo le informazioni del traffico. Lorenzo da Milano, lei cosa ha? Buongiorno, grazie nel per avermi cassetto. Chiamato. Io ho un saggio che tratta di Islam e politica in Italia dal 1996 ad oggi, è diviso in 3 parti. È aggiornato agli ultimi giorni? Alla fine del 2009, nulla vieta di fare un prolungamento di 6 mesi, voglio dire, è diviso in tre parti. Nella prima parte intervisto 10 personaggi di spicco del mondo sunnita in Italia, quindi intervisto il presidente di UCOI, Coreis, del centro islamico di Viale Jennero, 10 personaggi che mi raccontano le loro idee su Islam e società in Italia e che a settembre dell'anno scorso parlavano già di partito islamico piuttosto che di minareti, i temi che sono venuti fuori dopo. Nella seconda parte analizzo i programmi elettorali e i provvedimenti legislativi emessi in ambito Islam e immigrazione da parte dei governi dal 96 ad oggi. E nella terza parte propongo, a partire da una facendo una sintesi di quello che i due lati della medaglia mi dicono in quel lavoro, un progetto, un'idea per un nuovo modello di integrazione che superi la consulta per l'Islam che ci fu anni fa e che ha ottenuto scarsi risultati. Quindi è un saggio politico istituzionale con una proposta sono laureato in scienze politiche lo scorso dicembre e questo saggio è la versione libro con notevoli approfondimenti di quella che è stata la mia tesi di laurea magistrale. E nell'università non ha trovato nessuna possibilità di pubblicarlo come testo di supporto? La tesi ha portato a casa 8 punti, che era il massimo ottenibile. E no, io ne ho avuti 12, guardi, ero un disgraziato, poi ne ho avuti 12. Vabbè, a Milano mi dicevano che il massimo era 8 e ne ho presi 8. E Sergio Romano ha visto la parte finale della mia tesi, ha proposto a Guerini, che poi purtroppo mi ha detto no, grazie. Mi piacerebbe riuscire a pubblicarlo, mi piacerebbe molto. Va bene, terremo conto anche di questa sua proposta. Melog 2.0. Chi di voi, telefonando in diretta a Melog, riuscirà a convincerci della validità del proprio progetto editoriale? Chi saprà sorprenderci e sedurci avrà diritto di giocarsi la grande occasione della sua vita al Salone del Libro di Torino. Noi di Melog ci impegniamo a portare la sua proposta a un editore presente al Salone del Libro di Torino. Per una volta tanto, non scherziamo. Ora tocca a voi. Non avete alibi. Il vostro futuro artistico è nella vostra voce. Chiamateci e convinceteci. 800 24 00 24. Naturalmente non ci fermiamo qua. Noi nelle settimane prossime, forse addirittura questa settimana o la prossima settimana, no, questa no, ormai. Sì, forse entro questa settimana o anche la prossima, daremo altre possibilità di raccontare i propri libri. Poi l'apoteosi sarà appunto al Salone del Libro, dove raduneremo, chiameremo, convocheremo, collazioneremo e sviscereremo le attenzioni, le aspirazioni, le produzioni letterarie dei nostri ascoltatori con personaggi in grado di valutarne lo spessore, di valutarne la possibilità, e poi andremo ritualmente con Fabrizio Intonti, con tutta una processione di vergini, diciamo di vestali e di postulanti, a girare per gli editori portando, vedrete, sarà tutto raccolto, testimoniato e documentato, vedrete via foto e filmati della nostra ostensione dei vostri manoscritti in giro per editori, poi vedremo quale sarà la risposta. Non rispondiamo della risposta, ma possiamo dire che il tentativo lo faremo concretamente. Però, come avevo annunciato prima, abbiamo necessità, visto che Alberto Castelvecchi, il nostro ospite, agente letterario ed editore storico nel panorama della nostra editoria anche molto particolare, oggi lavora per la Liberty Castelvecchi, ci ha detto esiste il problema che molti aspiranti scrittori, poeti e romanzieri in realtà preferiscono scendere a dei compromessi con le case editrici e contribuire o addirittura finanziare il proprio libro. Tutto questo è stato documentato, classificato e reso palese dalla nostra amica Linda Rando, che abbiamo al telefono. Linda, buongiorno. Buongiorno. Racconta la tua storia, Linda, una storia piena di contrasti, di chiaroscuri. Io 2 anni fa ho aperto un forum che parlava di scrittura. Avevo 16 anni e volevo condividere un po' i miei racconti. Quindi sei giovanissima tuttora. Sì, ho 18 anni. Volevo trovare informazioni sulle case editrici perché ho sempre avuto la passione di scrivere e mi sono imbattuta su delle notizie che parlavano di editoria a pagamento. Sono rimasta sconcertata perché secondo me pagare per pubblicare è la stessa cosa di pagare per lavorare. Però sai, faccio anche con te, uno se proprio muore dalla voglia di pubblicare, vuole pubblicarsi da solo, se il mercato non accetta la sua produzione per motivi anche probabilmente che rispondono a dinamiche non propriamente legate al valore, alla valutazione del valore, secondo me, liberissimo di fare e pubblicarsi quello che vuole, è il suo rischio d'impresa. Ma tu cosa hai capito invece? E ci sono, se uno vuole pubblicarsi da solo, ci sono tipografie, ci sono... È quello che dico io, infatti. C'è di tutto. Se invece uno vuole pubblicare per il suo valore, si rivolge a una casa editrice e accetta la sua valutazione. È come se a un colloquio di lavoro, anziché il curriculum, si portasse una busta di 5.000 euro. Mm. La stessa cosa. Però l'editore potrebbe dire, guarda, secondo me il tuo libro... non ha un valore tale che io possa rischiarci del mio. Se vuoi, dividiamo il rischio, dai un contributo. Questo potrebbe, lo consideri lecito? Poi no. Sentiamo. No. No, perché è il suo lavoro. Perché dovrebbe. È come se un parrucchiere facesse pagare il fornitore di shampoo, di piastre, di il fornitore del suo arredamento, gli facesse pagare a lui una tassa perché non sa come andrà il suo lavoro. E cosa guadagna l'editore, secondo te, invece, a pubblicare libri in cui non crede, facendoseli finanziare, che gira il suo marchio? Guadagna dal lavoro, il marchio non c'entra nulla, guadagna il contributo. Quindi non rimette nulla, da parte sua non ci rimette nulla. Tu hai visto, hai diviso in tre categorie, diciamo, gli editori che hai palesemente messo nel tuo sito. Free, cioè quelli che non chiedono nessun tipo di contributo. Doppio binario, che chiedono contributi per alcune opere, per altre no. E a pagamento, quelli chiedono proprio essere pagati. Questo però mi sembra un esempio di trasparenza totale, quindi uno sa cosa va incontro. Sì, infatti è una lista di partenza. Se uno sa a priori che non intende pagare per pubblicare, risparmia del tempo a cercare. E comunque è messo in guardia anche per i più ingenui, per i più inesperti, dai rigiramenti di parole che gli editori a pagamento fanno. Ad esempio? Perché quando si chiede a un editore a pagamento, voi chiedete contributi, risponde con una email oppure con una telefonata lunga ore e ore, pagine su pagine, che parlano delle congiunzioni astrali che portano al mercato. Sì, però scusami, io sono molto pragmatico. Alla fine, se tu devi cacciare i soldi, dovranno chiederteli, ci sarà dato un titolo in cambio di quello che tu tiri fuori. Non credo che si fanno pagare al nero. Quindi non è una seduzione. Alla fine qualcuno ti dirà, guarda, se vuoi stampare con me, visto non voglio rischiare sulla tua roba, devi darmi 3.000 euro perché tanto costa un libro. No, o ti va... Non dicono io non voglio rischiare con te, dicono la tua opera è meravigliosa, tu meriti di essere pubblicato, però il mercato non lo permette. Lo scrittore ha un ego grande come una cattedrale. Sì, però certo, tutto questo dove lo troviamo noi in rete? Come? Il tuo sito come si chiama? writersdream.org. writersdream.org. Hai avuto problemi con gli editori per aver pubblicato queste liste? Molti. Perché si arrabbiavano? Sì, si arrabbiavano, mi hanno minacciata, mi hanno diffidata. Hanno minacciato di portarmi in tribunale, ma nessuno finora l'ha mai fatto. Ma in realtà, scusa, qual è il reato? Dire che se vai da un editore devi anche pagare? Ma nessuno, perché è legalissimo in Italia chiedere soldi per pubblicare, quindi non capisco dove sia il problema. Alberto Castelvecchi, come vedi te questo aspetto forse poco conosciuto dell'editoria italiana? Non è un reato, lo può far chiunque, perché si arrabbiano gli editori quando qualcuno dice che chiedono soldi? Ma dunque, perché un editore, soprattutto un editore di narrativa e di saggistica, quella che va sul mercato, è sostanzialmente un imprenditore. È un imprenditore della cultura, delle idee, che non solo non vuole e non deve essere finanziato dall'autore, ma è lui che si assume il rischio di finanziare la stampa. Il rischio di impresa culturale deve assumerselo lui. Ed è lui che sulla base del diritto d'autore, anzi, remunera, cioè paga un tot di percentuale su ogni copia venduta all'autore. Così è come funziona un mercato sano, con poche, pochissime eccezioni che possono essere, che so io, i costi di una ricerca, che so io, universitaria, che è talmente costosa che non sarebbe possibile affrontarla in editoria, oppure un mercato che è un mercato assolutamente a sé, che è quello dell'arte, in cui i mercanti d'arte, le gallerie, eccetera, eccetera, considerano il catalogo uno degli elementi di un'operazione commerciale imprenditoriale che fanno sul libro. Allora in questo caso se lo pagano, ma in tutti gli altri casi l'editore è sostanzialmente un imprenditore di idee. Se l'editore non vuole rischiare sulle tue non, idee... Non è un editore al 100%. Non è un editore propriamente detto, è poco più che uno stampatore. Io sottoscrivo in pieno quello che ho detto, però è bene che lo sappiano, lo sentano, diciamo, con grande chiarezza i nostri ascoltatori di questa mattina. Ecco, l'abbiamo su Alberto, siccome la sigla incombe, lo abbiamo detto, è stato reso molto chiaro qual è la differenza fra un editore e uno stampatore, chiede i soldi, anche se poi magari ha un marchio abbastanza conosciuto come editore. Visto che l'argomento è molto caldo, visto che dovremo tornarci da qui al 13 maggio, spero che i nostri ospiti ci hanno altre occasioni di supportarci e aiutarci in questa ricerca dell'autore di Melog. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.